questo punto di vista non è un po' difficile pensare che ci possano essere forme di comunicazione molto differenti rispetto a quello che poi c'è nella società? Faccio un esempio, forse si ricollega alla situazione di tu. Cioè, negli anni 70 c'erano dei giochi di sperimentazione tra le persone, i giorni si ricercava qualcosa di nuovo, diciamo, di gruppi, almeno per quanto riguarda quello che è stato documentato. Oggi, anche all'interno di gruppi alternativi, questo desiderio di sperimentare secondo me è un po' anche venuto meno nella base, e questo poi, come ovvio, viene riflesso immediatamente dallo specchio, che è, diciamo, quello che emerge poi dalla base, che è magari la forma artistica. Da questo punto di vista, quindi, diciamo, agire sugli artisti e pretendere che ci sia un linguaggio molto diverso da quello che poi è, diciamo, la realtà della base, diventa veramente, a mio avviso, molto difficile, proprio perché in qualche modo sono indissolubilmente legate le forme di comunicazione e quello che succede nella società. Quindi, anche perché la società oggi è molto più omologata rispetto agli anni 70, malgrado fosse negli anni 70 sicuramente una società ancora più... Certo. Però la polarizzazione aveva portato anche ad alcune uscite dal gregge. No, è molto giusto quello che dici, ma è che sostanzialmente sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che questa esperienza, quella di Radio Lice in particolare, non poteva che nascere in un determinato contesto. Ed è il contesto che abbiamo cercato di raccontare nel film, che è da un lato la sedimentazione di saperi che confluiscono in un unico calderone, che sono saperi di tipo artistico, l'avanguardia storica ad esempio, di sapere di tipo politico, di sapere stesso del movimento e delle sue pratiche, di sapere di tanti saperi che confluiscono in un determinato contesto che è quello degli anni 70, in cui una serie di forze, secondo me in primo luogo i giovani figli della classe operaia e dall'altro le donne, rimettono in discussione tutto, e quindi ecco che è molto facile, e in questo hai perfettamente ragione. Rimane però un discorso che non può completamente delegare al contesto la possibilità di fare un determinato tipo di lavoro. Uso ancora l'esempio del cinema. Non si può far finta oggi che il cinema sia nato 15 anni fa e che i primi cineasti al mondo si chiamino Quentin Tarantino e John Woo, e che prima non ci sia stato Orson Welles, Eisenstein, Godard, Griffith, Murnau, Rossellini, Vigo, Strobile e via dicendo. Ok? Kubrick. Ma Kubrick forse ancora se lo ricordano. La sensazione che ho è che invece giungiamo, e in questo senso i movimenti tendono un po' a cancellare questa sedimentazione che invece dovrebbe essere una ricchezza, tendono in qualche maniera a vivere in questo senso, c'è secondo me anche una responsabilità, completamente soggiogati all'interno di una meccanica che viene imposta da altri, cioè la meccanica ad esempio della contemporaneità vissuta come un eterno presente senza un passato e senza un futuro. Mi spiego cosa voglio dire, cioè quando vedo determinati, non ho problemi a parlare, non so, molti di voi immaginano, hanno visto La meglio gioventù, okay. La meglio gioventù, che è un film che ha avuto un notevole riscontro, che viene vissuto come un film di sinistra, no? e che ha fin nel titolo un esplicito riferimento a Pierpaolo Pasolini. È un verso di Pierpaolo Pasolini, no? È un film che di quello che Pasolini ha fatto, detto, scritto, filmato, bellamente se ne dimentica. Eppure dovrebbe essere, come dire, il sustrato indispensabile per quel cineasta. E se ne dimentica perché? Perché se no non fa audience televisiva. In questo senso il contesto lo determina, ma non posso non pensare che ci sia anche una responsabilità, e questa responsabilità vada chiamata in discussione, perché sennò si finisce in una sorta di determinismo, darwinismo completo, in cui tutto accade perché è il contesto che lo determina. Se oggi... Però il contesto è una cosa, tu l'hai spiegato come una cosa passiva, ma il contesto... No, certo. Io cerco di essere anche positivo e dico, fin quando non si cambia la base, e quindi la base non si riappropria di certe avanguardie, e quindi non le fa proprie e non le fa sorgere da se stessa, diventa difficoltoso, perché adesso io tante volte mi vado sul fatto che anche quando vedo un film degli anni 70, oggi, io nella mia testa dico, va bene, lo accettano tutti, è un film mito, ma un film del genere dovesse uscire domani è un disastro. Ma certo, è vero, però nello stesso tempo sai che... Non perdevi 2 ore a vederti Eisenstein, eri uno sfigato. Oggi se perdi 2 ore a vedere Eisenstein... Sei di nuovo uno sfigato. Sai, il fatto è che nessuno ci prova più. E questa è la cosa che io non in qualche maniera... Cioè, indubbiamente il fatto che abbiamo passato 2 decenni come gli anni 80 e 90, che hanno, come dire, tutto come dire, la reazione che c'è stata, tutto quello che hanno generato, per carità, nessuno li vuole mettere in discussione. Però così come in questo documentario ho fatto... Perché ho voluto alla fine andare a fare la domanda che cosa avete fatto dopo? E quello che ne emerge è un panorama, secondo me, assolutamente confortante. Nessuno di loro è diventato un dirigente Mediaset, nessuno di loro è andato in banca, nessuno di loro ha aperto una beauty farm o una cosa... Ecco. Vuol dire che quindi l'elemento della responsabilità individuale c'entra, qualcosa c'entra. E questa responsabilità individuale, che pure non deve essere secondo me considerata l'unica risorsa che ha a disposizione, l'artista, come il medico, come lo scienziato, come il professore, come chiunque, non è sicuramente l'unica risorsa che ha a disposizione, ma è una risorsa, e fare finta che questa responsabilità individuale non esiste, secondo me è un limite ed è una grossa perdita, che nel campo medico vuol dire ad esempio non preoccuparsi di spiegare che l'uso di determinati farmaci possono fare male, e fregarsene e scrivere solo il farmaco, perché te lo chiede la base. E no. A parte che dovrebbe essere un giuramento di Ippocrate, bla bla bla bla bla bla, ma tu hai la scelta di scriverlo o non scriverlo, di dire guarda che questo farmaco può fare male o non dirlo. E se sei un professore a scuola, sappiamo che la base è così, ma tu puoi abdicare e piegarti al fatto che nessuno vuole più sentir parlare di certe cose, nessuno vuole più sentir parlare di Manzoni, e tu invece hai la scelta, la possibilità. Questo, poi se andiamo sui grandi numeri, sui grandi temi, significa ad esempio continuare a rimanere, ad esempio, nel campo dei movimenti, nella sicurezza circoscritta del proprio ghetto, o invece allargarsi e mettersi in discussione con i propri strumenti, uscendo da questi ghetti, uscendo da un discorso che riguarda solamente coloro che fanno già parte di una ristretta cerchia. In questo o ti puoi, come dire, puoi uscire dal tuo ghetto completamente omologandoti a quello che esce, che è nella società, oppure portando i tuoi strumenti e mettendoti in discussione, sbagliando e provando e via dicendo. Non ho nulla contro chi prova e magari sbaglia anche, ma almeno ci prova. Ho la sensazione che questo sia un po', facendo riferimento a quello che mi chiedevi prima, questo sia oggi una delle grandi discussioni, una delle grandi, come dire, carenze. E non me lo aspetto da un ventenne. Me lo aspetto, ad esempio, da coloro i quali hanno un sapere e questo sapere si è sedimentato. Questo, secondo me, è una cosa che in qualche maniera manca, perché è vero che questa generazione ha agito anche contro la generazione precedente, ma c'era una sedimentazione, c'era una, come dire, una serie di saperi che si venivano e portavano lì. Vedo delle possibilità, più che delle nuove forme di comunicazione, vedo delle possibilità che sono legate più che altro a, in questo sono d'accordo con quanto diceva lui prima, nascono da situazioni, come dire, oggettive, concrete, nuove, che impongono la necessità di trovare un modo nuovo di raccontarle. Ad esempio il mercato del lavoro, la trasformazione che è avuta nel mercato del lavoro, impone che i discorsi che si facevano sul passato, sul lavoro, oggi non servono più. Quindi impone di cercare dei nuovi discorsi. Ho la sensazione che stia anche imponendo, perché se no è privo di efficacia, la riflessione su fare nuovi modi di raccontare, non solamente raccontare cose diverse, ma nuovi modi. Prima, parlando con loro a tavola, raccontavo di un progetto che sto seguendo, ma mi piacerebbe raccontarvi un aspetto di questo progetto. Sto preparando, forse farò, non lo so se dipenderà anche dai soldi, un documentario che in parte, solo in parte, ha a che fare con questo movimento di lavoratori precari dello spettacolo francesi, che si vengono definiti intermittenti, che sono in lotta dal 2003 a causa del tentativo da parte della Confindustria francese di modificare il loro sussidio di disoccupazione. Questa battaglia, inizialmente relativa specificatamente al loro sussidio di disoccupazione, si sta trasformando oggi in un tentativo di, fare una nuova proposta, di affrontare in maniera globale e in maniera complessiva e di fare delle nuove proposte relativo a tutto il lavoro precario, a tutto il lavoro discontinuo. Le proposte sono anche molto interessanti e ovviamente riguardano anche cose che vediamo in Italia, che vediamo in Germania, vediamo in Francia, la rivendicazione della flessibilità non come una maledizione ma come una possibilità, il rifiuto del lavoro a tempo indeterminato come invece un obbligo di tipo sociale inapplicabile a certe professioni, bla bla bla. Molto avanzate come punto. Allora sono andato la scorsa settimana a incontrarli per la prima volta di persona in Francia e il secondo giorno mi hanno invitato a una loro azione. Sostanzialmente ci siamo trovati alle 6 del mattino in una piazza e c'erano alla fine saranno stati 60, quindi molto pochi, con una decina di poliziotti a guardarli, poliziotti peraltro tutti in borghese, ma in Francia ho scoperto che esiste una categoria di poliziotto che sono sostanzialmente dei poliziotti, dei precari della polizia. E la realtà è questa. Non hanno il porto d'armi, non hanno potere di interdizione, possono però seguire chiunque ovunque. E vengono utilizzati soprattutto per gestire in maniera più morbida queste, ad esempio, manifestazioni. Immaginate, allo stadio significa sostanzialmente non pagare un poliziotto, ma anche non pagare armi, non pagare divise, vi dicevo, insomma, vengono assolutamente in borghese, hanno solo walkie-talkie. E comune. Sostanzialmente alle 6 c'è stato il concentramento, solamente 4 di loro sapevano che cosa si sarebbe fatto. Alle 6.40 hanno indicato di scendere in metropolitana. Abbiamo preso la metropolitana, abbiamo fatto 7-8 fermate, sempre con i poliziotti dietro, con questa anche cosa molto buffa, che è arrivata di fronte alle barriere, tutti hanno saltato. E io mi sono detto, cazzo, quando avevo 18 anni che andavo a Parigi, volevo saltare ma avevo paura che il poliziotto mi imbrancasse. Adesso che ne ho 45, non ho più bisogno, non ho più problemi di un euro, glielo do volentieri, e mi sono qua che salto con i poliziotti dietro che mi aiutano. Perché avevano paura che mi perdessi dagli altri. Hanno visto all'inizio che trafficavo a cercare il biglietto. No, mi hanno detto prego. Perché avevano paura. I poliziotti no, i poliziotti c'hanno il passante, no? I poliziotti c'hanno il passante e passano, ma loro avevano paura che io mi perdessi dal gruppo e che quindi loro non potessero controllarmi. Insomma, abbiamo fatto 6 o 7 fermate, poi siamo scesi. Tra l'altro vedevo che ogni tanto qualcuno si staccava. E abbiamo preso un altro treno, sempre con i poliziotti dietro, e abbiamo fatto un altro percorso. Dopo 5-6 fermate siamo scesi. Nel comunicato che viene solo mandato via internet, ma che naturalmente la polizia ha modo di leggere, c'era scritto che ore 6 puntuali, possibilmente con scarpe da ginnastica. Usciti da quella seconda metropolitana, e lì siamo usciti all'aperto, è arrivato l'ordine, ho capito perché bisognava le scarpe ginnastiche, grandissima corsa. Nessuno, io non sapevo dove andavo, ma nessuno credo di, tranne quei 4, sapevano dove andare. Siamo entrati di corsa, fate conto, alla sede RAI di Viale Sempione a Milano. Come se entraste nella sede RAI. Talmente in fretta e talmente, come posso dire, in maniera così repentina e inaspettata, che la vigilanza non ha potuto fare niente. Alcuni di loro erano già dentro, entrati come normali visitatori, hanno bloccato le porte dell'ascensore, hanno fatto salire tutti quelli che potevano, o dalle scale antincendio o tramite l'ascensore, al 7° piano, dove c'era in quel momento la diretta. In quel momento vi era una trasmissione molto seguita in Francia, quell'ora, quella radio che France Intel, che è la radio pubblica francese, ha un altissimo bacino d'ascolto, in quanto è l'ora in cui la gente va a lavorare, quindi ascolta così. E c'è stata una lunga trattativa in cui tra i redattori dell'emittente e questo gruppo, questa sessantina intermittenti, alla fine in sostanza, dopo una lunga trattativa, hanno concesso una decina di minuti di botta e risposta. Tutto questo ovviamente è solamente possibile in Francia, perché in Italia, voi lo immaginate, la polizia sarebbe entrata dentro, manganellate, botte, ti porto dentro, nulla di tutto ciò. Questi poliziotti, una volta che hanno capito l'obiettivo, hanno subito chiamato rinforzi, questa volta di polizia ufficiale, sempre in borghese ma di polizia ufficiale, e questa polizia accorse in massa, peraltro aspettavano gli intermittenti tutta un'altra parte, cioè erano già pronti a bloccare l'ingresso, perché in realtà una volta che tu non, in Francia non, cioè, se una persona entra in un luogo privato non può essere presa e portata via a meno che il proprietario del luogo chieda l'intervento delle forze dell'ordine, e questi di France Intel non lo chiesero, perché ovviamente sarebbe stato un boomerang dal punto di vista dell'immagine. Questi lavoratori lottano anche per lavoratori come quelli che sono dentro la radio, e tu chiedi alla polizia di intervenire con la forza e di sbattere via, potenzialmente poteva esserci anche qualcuno di France Intel all'interno di questo gruppo, per cui hanno concesso di parlare. Tutto questo per dire cosa? Questa lotta che fanno è per diritti nuovi, che una volta non esisteva. Questo tipo di azione, pur non essendo in sé assolutamente nuova, però, e lo stanno facendo da tempo, sbarazza completamente un uso, cioè ha un utilizzo dei media molto consapevole e secondo me molto nuovo, o comunque ricco di potenzialità, perché si può basare, primo, su pochissime persone. Non c'è bisogno di fare la manifestazione con che se non riesci a superare il numero della precedente diventi una notiziola in 12ª pagina. Ha un impatto mediatico mostruoso, a costo mediatico zero. Non hanno dovuto pagare, non hanno dovuto farsi la telestreet, farsi la radio. Utilizzi quello che c'è, lo cambi di segno, ma lo cambi di segno non solamente perché dici cose diverse, ma perché rompi completamente l'ordine del discorso di quel mezzo di comunicazione. Ecco, questo tipo di iniziative mi fa legittimamente ben sperare che, in questo senso sono d'accordo con quanto diceva prima lui, le condizioni strutturali generano nuovi bisogni, che non sono solamente bisogni di ordine materiale, psichico, affettivo e via dicendo, ma sono anche di nuovi bisogni di linguaggio, perché questa non era nient'altro che un linguaggio. Questa irruzione nell'ordine prestabilito, tutto preciso, del palinsesto di quella radio, era nient'altro che un intervento linguistico. Io spezzo il tuo ordine, così come vorrei spezzare l'ordine della tua società, in cui la flessibilità è diventata ormai uno strumento solamente in mano del capitale e non una possibilità invece mia di controllare la mia vita in maniera autonoma e via dicendo. Rendendosi conto che questo ordine qua che si spezza è un ordine che è stato rubato, cioè se non c'è minimo di questo presupposto teorico si fa sempre, diciamo, a gatto e topo, che non è proprio il gioco, cioè bene o male questa gente qua, cioè se teorie di comunicazione e di stabilità si bisogna studiare a tavolino, come loro hanno stabilito a tavolino determinati meccanismi di duplicazione, fagocitazione di linguaggi, di proprio di derubare il linguaggio a chi dovrebbe possederlo, cioè il singolo individuo. Ecco, se non si rende teoricamente questo, si fanno delle lezioni superficiali, oppure appunto questi risolvono in una dialettica educata che tante volte non è il caso. No. Certo, io non, con la mia domanda non intendevo esattamente questo, cioè il posto fatto il parallelismo anche nei propri supermercati ha avuto lo stesso effetto. Ma io intendevo questo, ad esempio in campo teatrale, perché Marco Paolini ha trovato una nuova forma di comunicazione, o ha usato lo stesso sistema che già preesisteva? Ha raccontato cose che molti sapevano già. Come mai è riuscito ad attrarre così tanta attenzione? Perché ha trovato una nuova forma di comunicazione, che non è nient'altro poi che la ricombinazione di forme precedenti. In questo senso Marco Paolini, secondo me, ha fatto

comunica e chi ascolta, altrimenti non ci si capisce assolutamente. Quindi se il lavoro di Marco Paolini o di altri è andato a segno, ha lasciato un'impronta, ha modificato qualche cosa, e perché chi lo ha recepito aveva in comune con te che comunichi qualche cosa che poteva mettere in grado di, come si dice, di decodificarlo. Più che dire noi inseguiamo il volere del pubblico, perché è un po' come mettersi, come staccarsi un attimino, io l'ho recepito così, può essere che non sia, e semmai non accettare una logica di potere che invece impone al pubblico, impone alla massa determinati metodi, determinati linguaggi, invece ne esclude volontariamente altri, perché possono dare fastidio. Può essere una comunicazione autoritaria che passa determinati messaggi, una comunicazione non autoritaria che invece ne manda gli altri. Ma se viene recepita, se viene compresa, se viene accettata, vuol dire che anche la parte della gente, la parte della massa esiste per la capacità di fare. Quindi non è che non insegui, tiri fuori qualche cosa che altri invece, che magari hanno le leve del potere, tendono a nascondere, tendono a non far venire alla luce. In realtà non, ho paura che ci abitiamo, perché non stiamo dicendo cose molto distanti. Non ho mai parlato di, come dire, come avevo già detto in precedenza, una comunicazione che non preveda, ne parlavo a proposito di Wu Ming, una comunicazione che non preveda un altro da me non è una comunicazione. Il problema è come raggiungo quell'altro da me, cosa lo considero questo altro da me, e se lo considero uno, come dire, un soggetto che interagisce con me sul terreno del linguaggio, o se lo considero semplicemente un ricipiente di un'informazione. Io ti lancio il messaggio e tu lo recepisci. Dato che io credo che il messaggio profondo sia il linguaggio è un ambiente, è, come dice Biffo nel documentario, a un certo punto è una modalità interattiva, è un luogo il linguaggio, non è uno strumento. In questo senso, secondo me, le trasformazioni più profonde sono quelle che avvengono nel linguaggio, e oggi come oggi io trovo che questo tipo di riflessione sia molto carente, soprattutto all'interno dei movimenti, non mi interessa in altri campi. All'interno dei movimenti mi sembra che questa riflessione sia drammaticamente carente, quando invece il potenziale linguistico del capitale sia ormai dispiegato in una forma potentissima e straordinaria. E invece vedo un omologarsi e un appiattirsi anche da parte di coloro i quali dovrebbero riflettere su questa comunicazione, questo che dicevo prima. Quando oggi ci si appiattisce completamente, ad esempio, all'idea che l'unico cinema possibile sia quello che vediamo, è un abdicare a quello che in realtà il capitale vuole che si veda. Poi ogni tanto ci rendiamo conto, ad esempio, perché arriva un regista iraniano che ci fa vedere un altro modo di filmare, e diciamo, c'è un altro modo di filmare. Non a caso l'ha detto qualcuno che è totalmente fuori, distante dalle logiche che il capitale impone, perché almeno fino a qualche anno fa dell'Iran al capitale non gliene fregava nulla. Ecco. Ma questo credo che sia possibile anche in Occidente, non c'è bisogno di attendere che arrivi dall'Iran, ecco. Il fatto che noi riusciamo a operare tecnicamente su, diciamo, una radio di luce stata, una chiave più personalistica e non, diciamo, documentaristica come lavoro presentato, hai pensato che chiave di interpretazione personale avresti dato a un fatto come appunto la comunicazione antagonista nel 77? Beh, dovresti vedere il film. perché il film è la risposta a questo. Ho fatto un film che si chiama Lavorare con lentezza, che di cui parlavo in precedenza. Ma la tematica, qual è il film? È la storia di una rapina e due giovanotti che devono fare la rapina, che sono la manovalanza della rapina, diventano, prima incominciano ad ascoltare Radio Alice, poi incominciano a frequentarla e alla fine diventano parte di Radio Alice. E le due storie, quella della rapina e quella della radio, confluiscono negli scontri del marzo del 77, in cui la vita della radio e le vite dei due ragazzotti ne usciranno completamente trasformate. Però, prego. Sì, io ho visto il tuo film Lavorare con lentezza ed è molto bello, molto bello. Anzi, ti dico che ho un debito di gratitudine perché voi avete fatto quel film. Cosa comica di questo ti racconto, così spiega anche molte cose sul meccanismo di distribuzione cinematografica, no? Vabbè, io non vivo a Milano, comunque l'ho visto in una provincia, in una città di 40.000 persone, cioè, o meglio, in un cinematografo in una città di 40.000 persone, non di 4.000, no? È stato proiettato solamente per 3 sere consecutive. È già tanto, quindi, Sì, è già tanto. In un cineteatro della parrocchia. Cioè, città di 40.000 persone, con 4-5 cinematografi, nessuno l'ha distribuito. Che città è, scusa? Gallarate, provincia di Varese. Ah, ma è al Blum? No, il Blum è a Mezzago. Grazie al cielo, cioè, le uniche cose interessanti passano dal cinematografo, perché è anche un teatro, di proprietà di tutto questo associazionismo che ruota attorno alla Chiesa, e fisicamente il luogo fa parte di questa associazione cattolica. Per fortuna, si vede anche in questo documentario, no? Qualcuno che lo dice, il cinema parrocchiale, non vedremo i film che meritano di essere visti. Siamo ancora così, Non solo, ma è stato su 3 giorni, per fortuna comunque c'erano i manifesti, quindi la visione pubblica c'era, la fanno. Il giorno che sono andato a vederlo io, che era l'ultimo dei tre, no? L'hanno proiettato solo una volta sola. Dalle 22 in poi c'era un altro film che non c'entrava niente. Cioè, la prima volta in vita mia che vado al cinema, no? Cioè, il film lo fanno solo dalle 8 alle 22. Uno si aspetta, ma forse, vabbè, tu esci, perché adesso c'è anche questa abitudine che se vuoi entrare fai un'altra volta il biglietto, invece una volta si poteva vedere. Se il film era bello te lo rivedere gratis, magari solo avessi quando è entrato. Sarei stato anche disposto a uscire e entrare nuovamente pagando. No, quella sera io non era possibile, no, perché c'era un film che non c'entrava niente, di genere tipo Ligoliano, no? Che però comunque, meglio così, cioè, piuttosto che non vederlo del tutto, no? Perché grazie a questi qua che l'hanno messo in cartellone per 3 sere, io ho potuto vederlo senza venire a Milano. Comunque, per dare a Cesare quel che di Cesare, poi comunque è stato presentato comunque il tuo film, se non altro, c'era una ragazza in gamba che fanno... sempre lì fanno anche, è una specie di, fanno anche, come dire, delle iniziative guidate, quindi si scelgono determinati film, il proietto è stato anche presentato da questa ragazza, il tuo, quindi ha compensato il tutto, no? Però per dire come siamo messi a livello di distribuzione di cinematografica. Poi è vero che uno dice, aspetti, lo vedi quando sarà in circolazione, no? Il DVD o la videocassetta, però io sono ancora l'idea che... I film vanno visti al cinema. Esatto, è diverso vederli su piccolo schermo che non vederli per il luogo naturale, la proiezione per il quale dovrebbero essere nati. Sono perfettamente d'accordo. Scusa, a questo punto io mi rilancio a lui con una domanda vista dal punto di vista del consumatore. Tu non ti devi offendere, ma se il tuo film viene proiettato in multisala, io non ci andrò mai a vedere. Legittimo. Come vedi questo? Preferisco andare nella sala della parrocchia, che come consumatore io faccio una scelta. No, è assolutamente legittimo. Non ho commenti da fare a questo. Questo riguarda molto... come dire, la tua coscienza, cioè io personalmente se un film non vabbè, io abito in una città per cui non c'ho problema, ma se abitassi in una determinata, come posso dire, realtà dove abitassi a Melzo, che l'unico cinema è una multisala, e vado a vedere la multisala. Come? Sì, a mezzo di sera. Certo, certo. Roma Alfa di Bologna. Era l'Alfa quello di Bologna, dove facevano le assedie. Ah, no, non lo so perché non sono di Bologna. Però capisco che possa essere così. Sai, se il discorso è un discorso relativo quasi tipo estetico rispetto al luogo, sono molto... E il fatto che dai soldi a... No, è al fatto che questa catena di distribuzione del vino mi piace. Lo so, però sai, da quel punto di vista lì... Un'immagine alternativa, anche quella di creare un'altra catena, un altro modo di andare a vedere. Ecco, io su questo non sono... Cioè, sono del tutto meno... Tu dici, la televisione è uno strumento, poi dipende da te come esatto. Assolutamente. Assolutamente. E non credo che... Cioè, sarebbe come dire, in qualche modo, che oggi possiamo vivere... senza il capitale. Noi viviamo dentro il capitale, ne siamo tutti parte. Poi dopo ci puoi vivere in maniera consapevole, conscia, e quindi decidi non andare a spendere i tuoi soldi da McDonald's o dare i soldi alla multisala o di non comprarti i jeans Levi's ma di una sottomarca. Però comunque sei dentro la stessa logica, perché il tuo jeans non sarà Levi's, ma chi ha fatto la sottomarca vuole farci soldi. E se non ti compri il libro... 30 anni che abbiamo deciso che il drop out non esiste più. Appunto, quindi questo... partendo da questa considerazione, con cui concordo perfettamente, a quel punto o fai i conti con la realtà... E io sono per fare i conti con la realtà che ho di fronte, sporcandomi le mani, facendo tutte le. Vivendo tutte le contraddizioni che implica vivere nel presente, oppure mi nascondo nel mio eremo e sulla mia torre d'avorio, e però non è. Quello che io invece personalmente sostengo, ma ritengo che la libertà individuale su questo debba essere sacrosanta, quello che mi interessa è quello di appunto dire questa è la realtà, il cinema in Italia oggi si fanno con i soldi o dei Rai o di Mediaset, non so chi dei due sia peggio, io li faccio, non faccio nulla per, come dire, che non voglia, nulla che per qualche maniera per soddisfare esigenze esterne, so che con i miei film vogliono farsi dei soldi, va bene, per me è qualcosa di più. E parto da questa consapevolezza. Se poi questa consapevolezza voglia dire che sto facendo la rivoluzione, no, non sto facendo rivoluzione, ma non la sta facendo nessuno, neanche chi non compra i jeans Levi's ma si compra i jeans della sottomarca. Sta semplicemente facendo un atto molto nobile di disobbedienza, in questo caso economica, ma fine a se stesso, per la propria coscienza, ed è una cosa straordinaria, ma non stiamo facendo la rivoluzione, non la faccio io, non la fa un altro, sostanzialmente. Ma a proposito dell'accesso alla cultura, così... Questo ovviamente peer-to-peer, certo. Scaricamento dei film dall'internet, certo. Eccetera. Anche tu probabilmente ne usufruisci. Sì. Io sono assolutamente favorevole. Quando uno si scarica a lavorare con lentezza. Assolutamente. Ma voi avete scaricato a lavorare con lentezza? Abbiamo tentato, però è un porno. C'è una fila infinita, è un porno. Non si riesce a scaricare. È un porno. Non c'è ancora il film. Guarda, mi dispiace, ma non c'è. Ce lo dico, mi dispiace. Io vorrei che ci fosse. Vorrei che ci fosse, ma non c'è. È un porno. Comunque io sono favorevole al... Un porno mi hanno detto peraltro di ottima qualità, chi ha avuto modo di vederlo per te. Però ecco, io sono favorevole allo scaricamento, alla condivisione in rete dei miei lavori. Fin dove posso lo faccio. e sicuramente non sarò io che lo vorrà impedire. E sono favorevole soprattutto, ecco, è come gli intermittenti che invece di fare su un'altra radio vanno a occupare quella che c'è già. Non sarò certo io che dirà che, come posso dire, non penso che sto cambiando qualcosa, però penso che cambi qualcosa se qualcuno decide di mettere il mio film in rete e se lo comincia a scambiare. Tanto sarà un problema dei miei produttori, di coloro i quali hanno come dire, avuto interessi di tipo finanziario, economico nel mio lavoro. A me interessa solo che più possibile la gente lo veda il mio film. Quindi mi è del tutto insignificante. Certo, preferirei che lo vedessero al cinema, per cui magari nel mio piccolo faccio una battaglia perché i film costano di meno, l'accesso alle sale cinematografiche costa di meno. Anche in una multisala non me frega niente, ma che costa di meno. Questo semmai è una battaglia che trovo sacrosanta, perché a me interessa che i film si vedano al cinema. Se nella realtà materiale, concreta, presente, io sono anche contento se lo scaricano da internet e se lo vedono gratuitamente. Che impressione ti hanno lasciato i compagni che hai intervistato in questo ripercorrere eventi di 30 anni? Come ho detto in precedenza, positiva, molto positiva. Positiva se non altro perché, sai, anche un po' il luogo comune che sostanzialmente non tutta una generazione sia stata vittima del riflusso, e non è vero. Ci sono straordinarie persone che hanno continuato a lavorare in questi anni. Che, ripeto, mi è sembrato una cosa interessante, anche una cosa, insomma, che mi ha fatto positivamente sperare, il fatto che nessuno di essi fosse diventato un bancario. Eppure credo che molti di essi abbiano avuto traversie economiche nel corso degli anni, anzi lo so. Comunque dal tuo documentario ti appellava una certa difficoltà da parte di alcuni di focalizzare tanti, di rappresentare il passato, non è facile. È una cosa che rimane, cioè, solamente a loro, quindi ecco, c'è questa difficoltà proprio storica. E secondo me ha a che fare in parte con la difficoltà di continuare a riflettere sui linguaggi. Faccio un esempio. La persona a cui io sono più vicino poi di quel gruppo è sicuramente Berardi. E Berardi è uno che sostiene a spada tratta, in maniera anche provocatoria, chi se ne frega del 77, chi se ne frega della storia, chi se ne frega del mio passato, non è importante. È importante parlare semmai del futuro, della possibilità di trasformare il futuro che abbiamo di fronte. In realtà lui fa un costante uso del sapere sedimentato in tutti questi anni, a partire dal 68, dal 77, poi c'è il cyberpunk, poi c'è tutto il mediativismo, poi c'è tutto quello che è successo negli anni 90, è tutto dentro il suo discorso. Ma come boutade e anche come atteggiamento psicologico, il punto, ne parlavamo prima con Gianni a tavola, è così importante raccontare che cosa è successo nel 77 alle giovani generazioni? No, secondo me cosa importante è che dentro il 77, così come in altri periodi storici, così come in altre esperienze, dicendo, c'erano dei germi che riguardano il futuro. Capisci? Allora, se la storia diventa un mero esercizio filologico di ricostruzione oppure di nostalgia, che è la cosa peggiore, non serve a nulla. La storia diventa un qualcosa di utile, importante, vitale, se getta al futuro, se ti apre la possibilità di interpretare il tuo presente e la trasformazione del tuo futuro. Più che altro prima, quando è intervenuto prima, parlavo di una fagocitazione del sistema, di quelli che erano gli strumenti del presente, di chi erano tanto. Quindi già questa idea di progettare poi un futuro, quando vi è un'erosione di realtà da parte di un sistema, mi sembra già improbabile. anche a livello di fatto di comunicazione, anche di metodologia, come vediamo nel documentario parlato, la radio in diretta, adesso abbiamo la TV in diretta, quindi anche la Carrà, l'intervista alle casalinghe è una social popolare, diciamo, no? Quindi anche solamente rimanendo al dato strettamente tecnico. E due, mi sembra che magari poteva essere sviluppata di più questa anche impossibilità di parlare del passato, perché diciamo per una determinata generazione non vi è tanto l'elegia oppure diciamo la nostalgia, vi è un'impossibilità del ricordo. E questo diciamo, vabbè, magari poteva essere, prima con la domanda che ho fatto sul film, poteva anche essere un argomento che potrebbe essere anche sviluppato. Vabbè, Palestrini parlava degli invisibili in un suo romanzo, e tutto sommato la problematica anche per progettare questo futuro è sempre quella, l'impossibilità di riproporre al presente e anche al futuro un determinato percorso, che poi le ragioni storiche sono tante, sono molteplici. Quindi ecco, è in questa dimensione così problematica che possono uscire i germi di un possibile futuro, non in una diciamo visualizzazione storicista come c'è il passato, c'è il presente, c'è il futuro. Certo. Che in realtà una determinata generazione, un futuro è stato negato con sistemi soliti e sono stati puntati motivi, ecco, che sono, potrebbero essere motivi di poter fare tanti film, ma solo uno, diciamo, su questo argomento. Se non passare a parlare del realismo magari socialista, come nel caso parlavi di quel film di La Meglio Gioventù, e quindi fare il discorso appunto così, ecco, sempre magari tra, appunto, come veniva fuori, tra arte d'avanguardia e realismo socialista, no? Che poi diventa un discorso formale, mentre sostanzialmente c'è questa appunto impossibilità di parlare. Bene, direi che hai già un altro pezzo di serata. Che sì, no, poi sono un po' cotto, scusatemi, ma sono un po' frullato. Grazie molte.